Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Questa settimana parto dalla copertina dell'Economist, che è di un bel verde brillante, e al centro c'è l'immagine di un interruttore, è tondo e all'interno c'è, si intravede di un verde leggermente più scuro, la sagoma dei cinque continenti. Il titolo è 21st Century Power, il potere del ventunesimo secolo, il potere nel ventunesimo secolo, come l'energia pulita potrebbe rifare, proprio to remake geopolitics, la geopolitica. Il riferimento è da una parte a quello che succederà negli Stati Uniti, e molto dipenderà dalle presidenziali. Se vincerà Trump probabilmente non ci sarà una svolta verde, se invece vincerà Biden ci sarà un maggiore investimento e una maggiore attenzione all'economia sostenibile dal punto di vista ambientale. Poi naturalmente c'è la Cina, che è sicuramente insieme all'India uno dei paesi, anche per dimensioni e per tipo di attività soprattutto manifatturiera, che inquina di più, ma sta investendo molto nella svolta verde. Poi c'è l'Europa, che se verranno seguite le linee guida dettate anche questa settimana, ribadite anche questa settimana dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, probabilmente a sua volta veramente si avvierà verso una nuova economia. A tutto questo si aggiunge il fatto che mentre ci si concentra di più sull'economia verde, si cerca di abbandonare non tanto il carbone, che è ancora molto diffuso come fonte energetica sia in Europa che soprattutto in India e in Cina, ma si cercherà di abbandonare il petrolio, e da qui di nuovo uno sconvolgimento geopolitico, perché potrebbe calare l'influenza del Medio Oriente, ma anche degli Stati Uniti, che sono comunque un grande produttore di petrolio. E questa era la copertina dell'Economist. Poi vi segnalo, perché mi ha molto colpito, in prima pagina su USA Today questo articolo che si intitola NBA Games Are Better in the Bubble, cioè le partite dell'NBA, della National Basketball Association, quindi le partite di basketball americano, sono meglio dentro in questa bolla, perché naturalmente anche negli Stati Uniti quelle poche attività negli stadi, nei palazzetti che sono state riaperte, sono comunque senza pubblico. E secondo questo commentatore, tutto sommato, questa idea di avere due squadre fatte da tutti gli sportivi che si confrontano senza essere influenzati dal pubblico, senza rumori molesti, e anche i rumori che loro stessi, quindi il rumore della palla in questo caso, ma anche delle scarpe sui pavé dei campi da basketball, insomma, hanno un loro fascino, tanto che, contrariamente a quanto si pensava, comunque queste partite trasmesse in televisione o in streaming stanno avendo molto successo. E poi vi segnalo così una nota un po' leggera, lo citiamo non spesso questo quotidiano, è il quotidiano tedesco Bild Zeitung, è un quotidiano molto diffuso, ha un formato che qui in Italia di fatto non abbiamo, mentre hanno nel Regno Unito, cioè quel formato di che viene detto tabloid, cioè titoli sparati, caratteri cubitali. Fino a poco tempo fa, questo succedeva anche nel Regno Unito, molte donnine seminude in copertina, questo non succede più, ma continua a esserci titoli un po' scandalistici. Scusatemi, questo è il numero che è uscito ieri in edicola. Il titolo era Singen verboten, aber Sex ist erlaubt, quindi è vietato cantare, ma si può fare sesso. Il che cos'è? Perché in realtà, detto così, sembra un'assurdità. Il fatto è che ci sono delle regole ancora molto stringenti per il numero delle persone che possono assistere alle funzioni religiose, che quasi sempre in Germania sono accompagnate da canti religiosi, ma invece in PUF, che sarebbe una traduzione un po' gergale di casa di appuntamenti, invece in queste case di appuntamenti pare che le regole siano molto meno stringenti. E poi, sempre sulla prima pagina della Bild, ci sono anche in Germania da molti anni, ci sono delle delle discussioni, anche delle polemiche sulla stagione della caccia. Ci sono regioni della Germania, penso soprattutto a quelle del sud, la Baviera in particolare, dove la caccia è molto diffusa, è appunto considerata uno sport. E quindi c'è questo numero che fa abbastanza impressione, cioè dall'apertura della caccia sono già stati uccisi dai cacciatori 800, il verbo usato dalla Bild è schießen, che vuol dire ai cinghiali è stato sparato, comunque sono stati uccisi, dico io, 856.000 Wildschweine, cioè maiali selvatici, ovvero cinghiali. Per restare in Germania, ma con un tema molto diverso che abbiamo seguito nelle scorse settimane, quello della società tedesca per i servizi finanziari Wirecard, ricorderete, adesso è in fallimento, ha subito un delisting dalla borsa, il suo amministratore delegato è stato arrestato, poi rilasciato su cauzione per un buco che ancora va specificato, ma dovrebbe essere di 1,75 miliardi di euro. E tutti i giornali tedeschi, a partire dalla Süddeutsche Zeitung, citano anche un altro problema, che è quello, oltre al fatto che i revisori di conti, in questo caso Ernst & Young, sì, è vero, il whistleblower, come si dice in americano, che vuol dire letteralmente colui che fischia nel fischietto, cioè che lancia l'allarme, è vero, è stata EY, però fino a quel momento non sembravano così irregolari i bilanci di Wirecard, e non credo che 1,75 miliardi di buco si accumulino in pochi mesi. Quindi da una parte loro sono sotto accusa, è sotto accusa anche l'autorità di vigilanza bancaria, l'equivalente alla nostra Consob, che in Germania si chiama BaFin, e anche tutte le banche che nel corso degli anni hanno finanziato Wirecard. Vedremo appunto come andrà avanti questa inchiesta, che sta procedendo in modo abbastanza spedito. A proposito, il fallimento di Wirecard in realtà non ha a che fare con l'emergenza economica, finanziaria e naturalmente sociale portata dal Covid, però ce ne sono tante altre, e mi è molto interessato leggere questo articolo dell'Economist, che tra l'altro trovate tradotto sul numero di Internazionale di questa settimana, che dedica la copertina e la storia più importante all'interno alla Bielorussia. Anche quello naturalmente è un lungo articolo che consiglio a tutti, ma questo dell'Economist si intitola Le cicatrici psicologiche della crisi. La pandemia potrebbe provocare danni economici più gravi e duraturi del previsto. Secondo alcuni studi, uno shock come quello attuale rende le persone meno fiduciose nel futuro. E sappiamo che, insomma, la fiducia è tutto, sia per le persone che per le aziende. Anche magari quando si parte svantaggiati o si inizia una nuova avventura, e ripeto, vale per le persone ma anche per le aziende, forse per le istituzioni e i governi, bisogna avere questo capitale immateriale che è la fiducia. Se un avvenimento come la pandemia mina questa possibilità di avere fiducia nel futuro, in realtà anche qui molto difficile da definire, molto difficile da quantificare, ma diventa proprio una cicatrice psicologica che fa fatica a rimarginarsi. Andiamo in Francia, perché Le Monde ha pubblicato uno studio che è stato fatto insieme all'Istituto Ipsos, che in effetti fa abbastanza effetto. Tra l'altro segnalo che ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi questa settimana. C'è la percezione in Francia che sia molto aumentata la piccola criminalità, quindi l'insicurezza delle persone, tornando al tema del sentirsi fragili. E se è vero che da una parte alcuni tipi di reati sono aumentati, e se è vero che in Francia, come in tantissimi altri paesi, il fatto che le forze dell'ordine fossero magari anche loro a ranghi ridotti per via dei protocolli Covid e magari impegnati a fare altri tipi di controlli, si è avuta la sensazione di che ci fosse meno controllo sul territorio. Poi in realtà, per esempio, il New York Times ieri segnalava, dati alla mano, che questa è appunto una percezione, che in realtà in Francia, come in molti altri paesi, il Covid non ha portato tantissimi effetti negativi, ma non questo. Ma sta di fatto che per questa sensazione che è palese evidentemente in Francia e quindi è stata captata dal presidente Macron. Il presidente Macron ha annunciato una serie di strette sulla sicurezza, ne abbiamo parlato anche qui, anche Effetto Mondo era sulla prima pagina di Le Figaro, regole più dure per chi occupa le case abusivamente, e Le Monde ha pubblicato questo sondaggio appunto condotto da Ipsos, secondo il quale i francesi tornano a essere in maggioranza favorevoli al ripristino della pena di morte, che non esiste più in Francia, così come non esiste più in Italia, e chiedono un vero leader per riportare l'ordine. Sono il 55%, 11 punti in più dell'anno scorso, un record, ad affermare che bisognerebbe ristabilire la pena di morte in Francia. Ricordiamo anche che questo dibattito potrebbe anche diventare importante, visto che Macron appartiene di fatto al centrodestra. Il partito di Marine Le Pen, che comunque ambisce di nuovo nelle prossime elezioni ad avere magari di nuovo lei stessa si ricandiderà alla presidenza della Francia, e naturalmente questo è un tema, è un cavallo di battaglia della destra, la reintroduzione della pena di morte. E quindi, a proposito di questa elezione che in Francia si terrà nel 2022, perché di fatto siamo noi in Italia domani e dopodomani ad essere il primo paese che va a un voto nazionale, se guardiamo per quanto riguarda il referendum dopo il lockdown. Ebbene, sempre Le Monde conferma che l'attuale sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che aveva escluso in passato di candidarsi alla presidenza della Repubblica nel 2022, invece comincia a non escluderlo più. Era però l'ultima segnalazione per oggi, anche se, come sempre, avevo messo da parte troppe cose. Ci sentiamo, se vorrete, domani verso le 7:15 per la rassegna stampa dei giornali italiani. E per ora un buon sabato da Giulia Crivelli. Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.